2024 di Enrico Pagliarini. Abbiamo come sempre la nostra pagina Facebook che potete utilizzare per parlare con noi durante la trasmissione, gli SMS, Twitter, il numero verde 800240024. Questa è la puntata del 20 ottobre 2012-2024 e il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Dunque, io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Nadia Zammitti che ci aiuta oggi in redazione, anche Paolo Corleone che è il nostro tecnico e risalutiamo. Ringraziamo anche Anita Panizza e questa è la piccola squadra che oggi ci aiuta. Siamo in onda fino alle 17, più tardi saranno con noi in studio due ospiti per parlare di stampa 3D e di startup, puntata interessantissima, bellissima, divertente. Però prima vi annuncio che i prossimi 10 saranno giorni molto interessanti per il mondo dell'elettronica di consumo, per il numero di annunci che arriveranno. Allora, di alcuni sappiamo quasi tutto, di altri c'è ancora solo qualche indiscrezione. Allora, si inizia il 23, quando Apple dovrebbe presentare l'iPad mini, quasi sicuro, e forse anche altre cose. Il 26 è il giorno del lancio di Windows 8 e dei nuovi prodotti che montano il nuovo sistema operativo della Microsoft, quindi computer portatili, alcuni tablet, e poi vi spiegheremo nella prossima puntata dedicata in gran parte a Windows 8 che esiste Windows 8 e anche Windows RT, che è un po' diverso, ma la filosofia è la stessa. Allora, poi passiamo al 29 ottobre, sarà la volta di Windows Phone 8, altro sistema operativo per i terminali mobili. E nello stesso giorno, giusto per fare un dispetto alla Microsoft, Google ha fissato un evento a New York per presentare alcuni prodotti nuovi, Nexus 4 di LG, uno smartphone, e poi la versione 3G del Nexus 7, il nuovo Nexus 10 di Samsung. Dovrebbero essere svelati anche alcuni nuovi particolari per Android. Una serie di annunci che potrebbero ridare fiato all'industria dell'elettronica di consumo e delle tecnologie IT in generale, perché in questi giorni, se avete seguito le cronache, c'è stata un po' di sofferenza, soprattutto in borsa, visti i risultati deludenti, a partire da quelli di Google, Intel, IBM, Microsoft, che, badate bene, continuano a macinare utili, quindi le aziende sono sane, vanno bene, però sono in rallentamento, quindi questo è un segnale che non è stato preso molto bene dalla borsa. Diverso il discorso per Nokia, che ha presentato nuovamente una trimestrale in perdita, con dati di vendite in calo per i Lumia, gli smartphone Lumia, ma questo era forse previsto in attesa dei nuovi Lumia con Windows Phone 8. Soffre anche AMD, che per fermare le perdite ha deciso di licenziare 1700 persone, circa il 15% dei quasi 12.000 dipendenti che attualmente lavorano nella società. Adesso veniamo all'Italia, alla Internet Governance Forum in vista della versione internazionale di questo appuntamento. Allora, si sta svolgendo a Torino proprio in queste ore. Noi un paio di ore fa ne abbiamo parlato con Juan Carlos De Martin, direttore del Centro Next del Politecnico di Milano, che salutiamo così. Bentornato 2024. Sono lieto di essere con voi. Perché è importante, soprattutto in questa edizione che precede quella internazionale, l'Internet Governance Forum, questo appuntamento in cui si discute del futuro della rete Internet? Ma allora, discutiamo del futuro della rete nel senso sia più generale dei problemi principali della rete, perché ovviamente ci sono, come in tutte le cose umane, delle opportunità della rete, perché la potenzialità della rete è ancora in larga parte da sviluppare e da capire, però ne parliamo anche nel senso di capire chi decide cosa su internet, quindi governance proprio nel senso di ma chi prende le decisioni, a quale titolo le prende, in che modo le prende. Allora, questa edizione 2012 capita in un momento particolare da diversi punti di vista. A livello nazionale, perché è un dato di fatto, possiamo riconoscerlo tutti, che il digitale è finalmente al centro dell'agenda politica. Questo non si poteva dire nelle precedenti edizioni. Quindi parliamo di Internet Governance e non è un caso che abbiamo avuto già un messaggio importante, un discorso del Ministro degli Esteri, e avremo tra poche ore la presenza del Ministro Profumo a Università e Ricerca. Quindi questa è un'indicazione di come si è cambiato il clima nel paese, nella politica e nel pubblico dibattito. E poi c'è anche un motivo a livello internazionale, perché si discute ancora una volta, proprio in queste settimane, del ruolo che devono avere o non devono avere organismi internazionali come l'International Telecommunications Union nella governance, nel potere di Internet. Diciamo che se noi guardiamo alla rete Internet oggi possiamo sostanzialmente essere soddisfatti di come funziona, nonostante i problemi ci siano, e giustamente voi ne discutete. Quali possono essere i rischi a cui andiamo incontro? Immaginiamo noi cittadini, noi piccole grandi aziende che operano in un mercato che, come dicevamo poco fa, si deve ancora sviluppare molto, cioè le potenzialità sono incredibili. Ma quali rischi ci sono? Ma il rischio che io vedo come appassionato di Internet insieme a tanti altri è che questa rete di telecomunicazioni, nata in una maniera atipica rispetto alle precedenti, non è come il telefono, come la radio, come la televisione, è nata con una struttura che proprio oggettivamente, tecnologicamente decentrata, dove quindi anche attori relativamente piccoli, addirittura l'individuo, ha una voce in capitolo che è maggiore delle tecnologie delle telecomunicazioni precedenti. Allora, la mia preoccupazione, che ormai è diversi anni che nutriamo in tanti, è quella che, vuoi per interessi economici o vuoi per interessi politici di certi governi, in particolare quelli che magari sono un po' più autoritari con i loro cittadini, si cerchi di depotenziare questa struttura diffusa di potere, cioè si tende a concentrare, come in fondo sono sempre state concentrate le vecchie tecnologie della comunicazione. Grazie al professor Juan Carlos De Martin, buon lavoro, e grazie soprattutto a te, ma non solo a te, a tutte le persone che partecipano a questo appuntamento, per la passione che mettete, perché insomma, al di là del lavoro, dell'attività quotidiana, insomma, l'elemento di passione è molto importante. A presto. Grazie a voi, a presto. Allora, vi ricordo che il 7° appuntamento mondiale dell'Internet Governance Forum si terrà il 6, 7, 8 e 9 novembre a Baku in Azerbaigian. Questi sono temi importanti, perché poi possono succedere cose che verifichiamo davanti al computer tutti i giorni, magari non riusciamo a fare una cosa e diciamo: ma perché? E queste cose a volte sono decise a livello internazionale, quindi è bene che ci siano persone che si domandano come creare, se è giusto cambiare la governance della rete Internet. Digital News. I quattro operatori di telefonia mobile in Italia e Poste Mobile hanno annunciato la nascita di una piattaforma comune per rendere interoperabili i sistemi di pagamento tramite tecnologia NFC, Near Field Communications. Questo gruppo di aziende si è impegnato a favorire la diffusione degli smartphone con chip NFC, che dovrebbero essere l'80% alla fine del prossimo anno, e si sono impegnati anche a distribuire le nuove SIM abilitate a questi servizi. Servizi che verranno lanciati nel corso del 2013. Vi ricordo che di questa tecnologia si parlerà a Milano la prossima settimana all'NFC and Mobile Money Summit 22-25 ottobre. Vodafone e TIM hanno annunciato l'avvio dei servizi 4G. Vodafone parte per prima il 30 ottobre a Roma e Milano, e le tariffe saranno comunicate lo stesso giorno, mentre TIM partirà il 7 novembre a Roma, Milano, Napoli e Torino, a tariffe che partono da 29 euro al mese. Tre dovrebbe lanciare i servizi entro novembre. Digital News. Asus ha presentato a Milano il Padfone 2, l'evoluzione del concetto lanciato in primavera con un tablet che ospita al suo interno, c'è proprio una docking per uno smartphone. Nello smartphone c'è l'intelligenza, il sistema operativo, il processore, eccetera, eccetera. Se si vuole usare solo lo smartphone, lo si estrae e si ha appunto un terminale Android 4.0. Attualmente si tratta del terminale più potente al mondo, con caratteristiche di livello molto elevato. Padfone 2 sarà disponibile dall'8 novembre a 799 euro nella versione 32 giga e quella 64 giga a 899 euro. A dicembre ci sarà la possibilità di acquistare solo lo smartphone a 599 euro. Digital News. SoftBank, che è il terzo operatore di telefonia mobile in Giappone dopo NTT e KDDI, ha annunciato l'acquisto di Sprint Nextel, il numero 3 del settore negli Stati Uniti, per 20 miliardi di dollari. SoftBank diventerà così uno dei principali operatori di telecomunicazioni al mondo, con 96 milioni di abbonati. Digital News. Ultima notizia, è disponibile per il download da un paio di giorni la nuova versione di Ubuntu, la più nota e più facile da utilizzare tra le distribuzioni Linux. La nuova versione è la 12.10 e si chiama Quantal Quetzal. Per gli appassionati di Linux, ricordo che quest'anno il Linux Day è sabato prossimo, il 27 ottobre. Maggiori informazioni su linuxday.it. Noi la prossima settimana parleremo di Windows 8, perché il 26 viene lanciato in tutto il mondo e fa un po' sorridere che proprio quel giorno sarà il Linux Day. Adesso ci fermiamo un minuto, riprendiamo tra poco e parleremo di agenda digitale. 2024. Più tardi parleremo di stampa 3D a 2024. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800240024. Potete utilizzare anche Facebook e Twitter. Allora, sapete probabilmente che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sviluppo 2.0, che contiene anche alcuni ingredienti per fare partire una sorta di agenda digitale anche in Italia. Sappiamo che serviranno poi i decreti attuativi, questo è importante. A proposito di agenda digitale, la School of Management del Politecnico di Milano ha presentato i risultati di un osservatorio. Ne abbiamo parlato con il professor Andrea Rangone, che è il coordinatore scientifico degli osservatori del Politecnico. Era da anni che aspettavamo di fare un osservatorio sull'agenda digitale. Peccato che non ci avevamo come Italia un'agenda digitale. Ecco, adesso che abbiamo un'agenda digitale, abbiamo fatto un osservatorio sull'agenda digitale. Al di là della battuta, che in realtà è molto vero, sì, abbiamo deciso di provare seriamente a fare delle ricerche per comprendere bene gli impatti dell'innovazione digitale su quegli indicatori fondamentali per il nostro sistema paese. A SMAO abbiamo presentato i primi risultati di circa un 6 mesi di lavoro, articolati in un insieme di cantieri, insieme di ambiti. Ecco, li sintetizzerei un po' così. Allora, primi, siamo andati a vedere alcuni ambiti che dal nostro punto di vista possono rapidamente, nel breve termine, avere un impatto consistente nella riduzione dei costi della pubblica amministrazione e quindi di conseguenza anche del nostro deficit, che è uno dei parametri chiave del nostro paese. In particolare siamo andati a vedere a questo riguardo gli impatti di un utilizzo un pochino più diffuso dell'e-procurement, quindi degli strumenti digitali per negoziare e comprare beni delle nostre pubbliche amministrazioni. Siamo andati a vedere procurement per la pubblica amministrazione, potremmo tradurre una grande centrale acquisti della pubblica amministrazione. Non è solo questo, ma anche l'utilizzo degli strumenti elettronici digitali, ad esempio per fare le gare cosiddette telematiche o per acquistare con i cataloghi elettronici. Che già viene fatto in parte. Che già viene fatto, è quello la cosa, che noi in realtà in Italia abbiamo una buona tradizione, no? Legata ad esempio a Consip, la nostra centrale di acquisto, ma anche ad alcune centrali di acquisto regionali molto molto avanti. Peccato che tutto sommato in questo momento si sia mosso solo una piccola percentuale del nostro sistema pubblico ad adottare questi strumenti. Ecco, un ingresso normativo un pochino più forte sicuramente porterebbe ad una diffusione maggiore, e noi abbiamo ipotizzato che anche solo intercettando un 30% del totale acquisti della pubblica amministrazione, che non è una cifra elevatissima, no? È una cifra importante ma non elevatissima, raggiungibile, potremmo portarci a casa un 7 miliardi di euro di benefici divisi fra saving e incremento di produttività delle persone. Ecco, questo è un primo ambito. Un altro ambito importante è quello della fatturazione elettronica. Abbiamo dal 2008 una bellissima legge, peccato che manchi il decreto attuativo ormai da 3 anni, quasi 4. E anche qui ci vorrebbe poco, no? Ecco, l'ingresso di questo decreto attuativo renderebbe obbligatorio la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Anche solo questa componente abbiamo stimato che potrebbe portare un risparmio alla pubblica amministrazione di circa 1 miliardo di euro, invece ai fornitori della pubblica amministrazione, quindi al mondo privato, un altro miliardo. Ma non solo, perché è chiaro che rendendo obbligatorio la fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione si avrebbe anche un effetto indiretto, una maggiore diffusione della fatturazione elettronica nei confronti di tutte le altre imprese, quindi nelle transazioni business to business fra imprese. Anche qui, ipotizzando un effetto anche solo di una diffusione di un 20%, no, della fatturazione elettronica in queste transazioni, stiamo parlando di un altro 5 miliardi di euro all'anno di risparmi del sistema delle imprese private. Abbiamo fatto una riflessione ancora, cioè una ricerca in realtà, sul tema dei pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione, ad esempio di alcune tasse. Anche lì, mettendo alcuni numeri, viene fuori che ipotizzando che anche solo un 30% oggi di pagamenti venga fatto nei confronti della pubblica amministrazione con strumenti elettronici, con le carte, oggi siamo a meno del 10%, avremo un altro risparmio intorno al miliardo di euro. Minori costi della pubblica amministrazione. Ecco, questo è un primo ambito, quindi interventi concreti che porterebbero già nel breve termine a un risparmio di costi del nostro sistema pubblico. Un secondo ambito interessante è invece la lotta un po' all'evasione fiscale, no? Che è uno dei temi che da sempre sono nella priorità politiche. Anche qui una recentissima indagine evidenzia come una diffusione maggiore dei sistemi di pagamento elettronico in Italia, sappiamo tutti che siamo un paese molto arretrato da questo punto di vista, ecco, noi abbiamo ipotizzato di passare da un 20% attuale di acquisti al consumatore a un 30%, ecco, questo passaggio di 10 punti percentuali, che non è, voglio dire, un salto mortale doppio, ecco, porterebbe ad un incremento delle entrate fiscali di circa 5 miliardi di euro, una buona parte IVA evasa. Questo è un secondo ambito. Un terzo e ultimo ambito riguarda invece proprio la spinta alla crescita, la spinta al PIL, all'occupazione. Da questo punto di vista, un cantiere del nostro osservatorio Agenda Digitale è dedicato alle start-up, visto che anche sono al centro dell'agenda di questo governo. Bene, anche qui, ipotizzando di inserire nel nostro ecosistema di start-up 300 milioni di euro, che non sono pochi, non sono tanti. È chiaro che non possono venire tutti dalla mano pubblica, che oggi ha la manina molto, ecco, molto corta, no? Ma anche solo da i contributi dei privati, sapendo che in Italia siamo uno di quei paesi in cui i capitali privati non ci mancano, ecco, bene, 300 milioni in questo sistema porterebbe nell'arco di 8-9 anni ad un incremento del PIL di circa 10 volte tanto, 3 miliardi di euro, pari allo 0,2% del nostro PIL. Ricordiamoci che siamo un paese in regressione e che quando cresciamo bene cresciamo di pochi decimi di punti percentuale, no? Quindi uno 0,2% in più legato al nuovo, alle start-up, può fare la differenza. Stiamo parlando di, io ho fatto i conti mentre lei parlava, di una ventina di miliardi di recupero di risparmi? È proprio così, la cifra complessiva va dell'ordine di grandezza di 20 miliardi, sì. Questo risultato, questi risultati, si potranno ottenere perché, diciamo, auspichiamo che prima o poi questi decreti attuativi verranno scritti e approvati, e quindi, diciamo, è una previsione concreta o è una previsione fatta sulla base di una speranza che la pubblica amministrazione sia poi in grado di mettere in pratica tutte queste cose, che tra l'altro sono prudenziali, perché abbiamo detto basterebbe che solo una piccola percentuale dei pagamenti diventi elettronica, eccetera eccetera. Sì, no, allora, noi pensiamo che l'attuale governo, ponendo al centro della sua azione politica in maniera così prepotente, no, i temi dell'innovazione digitale e delle start-up, comunque di per sé stesso abbia tracciato una strada che ha iniziato a dare i suoi benefici proprio perché ha iniziato concretamente a lavorare sul vero digital divide italiano, che è un digital divide culturale ancora prima che infrastrutturale, no? Ecco, quindi allora il fatto che finalmente ci sia sotto il faro dell'azione politica questi temi, di per se stesso ritengo, in un paese come il nostro, da chi da 15 anni il sottoscritto si occupa di queste cose, sia di per se stesso un beneficio importante. Detto questo, per rispondere alla domanda, è chiaro che dai decreti bisogna passare agli attuativi, e una volta che passano gli attuativi bisogna anche capire se il nostro paese, in particolare la nostra pubblica amministrazione, visto che molti interventi dell'agenda digitale riguardano l'innovazione nella pubblica amministrazione, sarà in grado di attuare concretamente questi decreti attuativi. Io penso, e lo sostengo da parecchio, che sia fondamentale affiancare ai decreti anche un'importante azione, io la chiamerei di empowerment digitale, ecco, dei nostri manager, tra virgolette, i nostri funzionari pubblici. È importante identificare un manipolo, mi consenta il termine, di manager, di funzionari pubblici che siano pivot dell'innovazione all'interno della nostra pubblica amministrazione. Quindi da una parte che abbiano dotati di competenze tecniche e convinzione, ecco, per svolgere questo ruolo. D'altra parte che abbiano anche un mandato per riuscire a lottare contro le 3.000 inerzie che incontreranno non appena cercheranno di cambiare qualcosa all'interno, appunto, di un contesto che sappiamo bene è tutt'altro che propenso ai cambiamenti. E questo sicuramente è un problema molto grave, cioè quello di far cambiare nel profondo la pubblica amministrazione. Riprenderemo tra poco nella seconda parte di 2024, parleremo di startup e anche di stampa 3D, un argomento molto interessante, molto stuzzicante. Vi aspettiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Seconda parte di 2024, siamo in diretta, sono le 16:07, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800240024, potete utilizzare anche Twitter, Facebook oppure gli SMS 349-238-6666. Io sono Enrico Pagliarini, in questa seconda parte parleremo di startup e proprio partendo da una delle startup che sono state presentate e premiate a SMAU all'interno dei percorsi dell'innovazione, parleremo di stampa 3D. Questo è un argomento, come dicevo poco fa, stuzzicante, molto divertente, anche perché non so quanti di voi sanno che esistono già da un po' di tempo, ma i prezzi stanno diventando sempre più popolari, delle stampanti che producono, più che stampano, producono prodotti veri e propri tridimensionali. Saluto Emil Abirashid, che è curatore dei percorsi dell'innovazione ed è l'animatore di Startup Business, nonché fondatore. Ciao, bentornato a 2024, Emil. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Dunque, Emil, tu hai fondato Startup Business, che è una piattaforma per le startup, e dopo ne parliamo brevemente, e hai fondato, o meglio, hai curato da quanti anni? 4, 3, 4, 5? Percorsi dell'innovazione, sì, esatto. L'ottava edizione. Quello che ah, già l'ottava edizione, sì. Pensa un po'. Che cos'è i percorsi dell'innovazione? Cosa che a me piace molto di SMAU, direi la parte più divertente di SMAU, perché si trovano delle idee, oltre che innovative, anche delle idee molto originali. Sì, il percorso di innovazione nacque nel 2004 come quasi una scommessa. Oggi è arrivata l'ottava edizione dell'area dove trovano spazio le startup innovative. Benché sia dentro SMAU, non ospita startup esclusivamente del settore ICT, abbiamo anche startup che usano, diciamo, l'informatica come mezzo e non solo come fine, quindi avevamo anche startup delle energie e delle biotecnologie, anche quest'anno erano circa un centinaio quelle presenti. Tra loro sono tutte startup che vengono dalla community di Startup Business, tra loro poi una trentina hanno partecipato a questo evento che facciamo all'interno di una percorsione di innovazione che si chiama Speed Dating dell'innovazione. Quest'anno l'abbiamo fatta la quarta edizione all'interno di SMAU, dove ha visto 33 startup delle 100 presenti con lo stand incontrare altrettanti, sì, tra investitori, adesso innovatori. Spiego che cos'è lo speed dating dell'innovazione. Infatti. Allora, il dating è preso dall'americana, che è una cosa che funzionava anche quando c'erano solo i giornali di carta e magari uno inviava un annuncio e diceva: cerco una signorina a cui piace il poker per vederci alla sera, e si trovava moglie anche in questo modo. Poi questa modalità si è sviluppata anche nel mondo del business, e quindi nel mondo degli affari ci si incontrava in luoghi per scambiarsi informazioni, e poi questo viene utilizzato anche oggi per far incontrare aziende giovani, innovative, le startup con chi finanzia, quindi venture capital. Sì, non nel solo, vostro con tutti caso, gli altri attori, sì, dell'ecosistema. Nel, sì, nostro caso è high speed dating, perché questi incontri one to one avvengono tutti in una sala, sono incontri che durano 3 minuti, con la forma da appunto 3 minuti, 3 slide, tu ti devi presentare. Uno deve spiegare che cosa fa in 3 minuti. Esattamente. Pensa un po', Se non sei in grado di spiegare quanto innovativa la tua idea in 3 minuti, probabilmente l'idea non è abbastanza innovativa. O comunque devi imparare a diventare bravo a spiegare com'è la tua idea. Questa è una delle caratteristiche che i giovani che fondano impresa devono avere. Senti, a proposito di startup, visto che anche il governo con il provvedimento sviluppo 2.0, l'agenda digitale, eccetera, eccetera, se ne è occupato anche il Parlamento, perché esiste un disegno di legge a firma parlamentare che prevede, insomma, finanziamenti per le start-up. Poi vedremo se queste cose andranno in porto, perché devono essere approvate dal Parlamento e devono diventare legge. Però, insomma, c'è un risveglio, ma faccio un po' capire il mondo delle start-up a livello nazione, se è diventato come quello di altri paesi, adesso senza citare sempre i soliti Stati Uniti. Allora, c'è una crescita sensibile anno su anno del fenomeno delle start-up. Questa crescita sensibile segue diverse strade di sviluppo, alla fine dei conti però l'obiettivo è quello di fare in modo che questa nuova imprenditoria innovativa generi del valore, quindi vada sul mercato, faccia dei fatturati, crei dei posti di lavoro e contribuisca al rinnovamento del tessuto economico e industriale del paese. Gli attori che girano, che compongono questo ecosistema, quindi oltre ai giovani imprenditori, ma anche meno giovani, comunque gli imprenditori innovativi, il mondo della finanza in capitale di rischio, venture capital, business angels, il mondo degli incubatori e tutto e altre realtà che concorrono affinché queste nuove aziende possano svilupparsi, è sempre più presente. Sto osservando una crescita di attenzione anche da parte del mondo industriale più tradizionale, il quale sta comprendendo che all'interno di queste startup ci sono delle innovazioni molto importanti, molto interessanti, quasi pronte all'uso, no? E quindi sempre più spesso ricevo richieste da grandi imprese, medie imprese italiane ma anche internazionali, che sanno che dentro le startup c'è questa innovazione, non sanno come approcciarla. Allora vengono alla Startup Business, che ha questa community di startup, e facciamo quelle che chiamiamo noi call industriali. Quindi diciamo che aiuti anche le imprese tradizionali ad avvicinare le startup. Sì. Non è un caso che il premio che è stato dato a SMAU è un premio che è stato fatto in collaborazione con i giovani industriali di Confindustria Lombardia, se non sbaglio. Esattamente, non solo Lombardia, i giovani industriali di Confindustria di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, insomma di alcune regioni, sì. Ma la cosa importante oltre a questa è che i premi sono stati assegnati da organizzazioni industriali, IBM, Microsoft, che ha dato il premio congiunto allo Startup Business, c'era Dell, c'era HP, quindi... Sì. C'è una crescente attenzione. Senti, adesso presentiamo anche, perché i nostri ascoltatori lo sanno se hanno visto su internet gli ospiti di oggi, però saluto David Montenegro, benvenuto, ciao David. Ciao Enrico. Allora, tu sei uno dei fondatori, comunque fai parte di una startup. Faccio parte di Kenstrapper. Esatto. Siamo una squadra, un gruppo di ragazzi che ci siamo messi assieme per realizzare stampanti 3D in open source. Ecco, prima di parlare delle stampanti 3D, che è uno degli argomenti che vogliamo affrontare oggi, volevo presentarti, perché tu sei uno di quelli che ha ricevuto uno di questi premi dati all'interno di SMAU, e volevo capire se vedendo il panorama delle startup non dall'alto come Emile, che ha una piattaforma e vede tante startup eccetera, vedendolo dal basso, che cosa ti sembra? Cioè, se c'è troppa euforia, stiamo parlando troppo di startup e affidiamo troppe speranze per la crescita di questo paese alle startup, come vedi questo fenomeno? Ma le startup sono viste in generale proprio come la possibilità, l'alternativa, no? Un po' la speranza per quello che può essere una ricrescita in qualche modo. Dal basso si vede tanto entusiasmo. Cioè, c'è il fermento? Tantissimo, perché poi dialoghiamo tantissimo, quando si partecipa ad eventi si ha la possibilità di chiacchierare anche con altri ragazzi che hanno idee imprenditoriali, e sì, si sente che c'è tanta voglia da parte di una buona fetta. Quindi Emir, questo fare. È positivo? Questo è assolutamente positivo. Quello che Davide sta dicendo è molto interessante, perché dà un segnale anche del fatto che l'approccio al concetto di imprenditorialità di coloro che fanno aziende innovative si poggia su paradigmi che sono un po' diversi da quelli della tradizionale imprenditore, no? Quindi c'è un concetto di concorrenza ma anche di collaborazione molto più sviluppato, ed è per quello che la community di Startup Business funziona bene. C'è un concetto di approccio all'internazionalizzazione dal giorno 1, capito? Le startup in realtà sono multinazionali che muovono i primi passi, okay. Bisogna vederle così. Chiarissimo. E quindi hanno questo approccio innovativo, che è una buona cosa. Adesso sono le 16:16 minuti. Ci fermiamo un minuto, poi cominciamo ad entrare nel mondo di queste startup partendo da Kenstrapper, che è nome complicato, ma mi siete dati questo nome, quindi dobbiamo abituarci, che fa stampanti 3D. Poi ne abbiamo intervistate alcune, giusto per dare un senso al percorso che abbiamo fatto all'interno dei percorsi dell'innovazione in questi giorni a SMAU. Ci sentiamo tra poco. 2024. Le 16:17 minuti, questo è 2024, chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. Abbiamo detto che oggi approfittiamo di questo percorso, di questo racconto che abbiamo fatto anche in questi giorni a Radio 24 all'interno dei percorsi dell'innovazione per parlare di startup, partendo da Kent Strapper. Allora Davide, voi avete fondato questa piccola azienda, quanti siete? Siamo in 4. Però non sei deciso. Non sono deciso perché naturalmente come tutte le startup, Certo. Abbiamo anche altro da fare, quindi a seconda del quanti riescono a partecipare quel giorno, non sempre riusciamo a essere in 4. Da quanto tempo esistete? Commercialmente da novembre 2011, quindi un annetto. Perfetto. E se dovessi definire in una parola quello che fate, in una frase? Stampanti 3D cosa? Cioè stampanti, le vendete, 3D, le costruite? Sviluppiamo, realizziamo e vendiamo dei dispositivi che permettono di prendere un file che esisteva nella realtà virtuale e di trasferirlo nella realtà reale, quindi di dargli concretezza a un disegno. Adesso spieghiamo. Allora, esistono da qualche tempo, ma fino a poco tempo fa costavano molti soldi, delle stampanti che... Noi utilizziamo questo nome che forse non è corretto. Magari anche un po' improprio, però esatto. È entrato nell'uso. Esatto. Che riescono a produrre degli oggetti veri e propri. Quindi noi dobbiamo dimenticarci della stampante che prende il foglio e con l'inchiostro. Non usa inchiostro, non va sulla carta, no. Spiegaci un po' come sono fatte queste stampanti e che cosa producono poi. Allora, una stampante, come accennavo prima, una stampante 3D sfrutta un disegno realizzato in 3D al computer. Un progetto, sì, per poterlo realizzare, quindi poter realizzare l'oggetto fisico che si è progettato di fatto. Il vantaggio della stampante 3D è che ti permette di realizzare esattamente quello di cui hai bisogno. Se sei in grado di disegnarlo al computer, puoi farlo. Se hai un'esigenza specifica, molto particolare, alla quale il mercato non riesce a dare una risposta, puoi adesso fartela in casa, in un certo senso. Allora, stiamo parlando di un oggetto che è abbastanza piccolo, perché sì, 50x50... Sta su una scrivania. Sta su una scrivania. Cosa fa? Entriamo nel dettaglio. Proprio tecnicamente? No, tecnicamente. Spiegaci cosa fa. Cioè, stampa come? Cioè, ha uno stampo oppure scalpello? Come fa a fare questi prodotti? Allora, funziona sulla... Va immaginato un po' come una pistola per la colla a caldo, se abbiamo in mente l'oggetto di cui stiamo parlando. Cioè, prende del materiale che è un filo di plastica, entra all'interno di questa testina riscaldata con un foro e viene estruso dall'altra parte. E il computer controlla i movimenti di questa testina e uno strato dopo l'altro, partendo dal basso, costruisce l'oggetto che avevamo disegnato al computer con un programma appunto di modellazione 3D. Quindi è Fatto l'esempio dell'ananas. Esatto. Immaginiamo di avere un ananas, no? In genere lo tagliamo in orizzontale a fette tonde. Se vogliamo ricostruire quest'ananas, prendiamo la prima fetta, l'appoggiamo, poi sopra la seconda, la terza, la quarta. In questo modo riusciamo a ricostruire l'ananas. Ecco, il principio è grosso modo quello. Si parte da quell'idea di ananas e lo ricostruiamo uno sull'altro. Sì. Senti, quanto costa una cosa del genere? Perché uno potrebbe pensare, vabbè, ma questa costerà migliaia di euro. No, siamo al di sotto dei 1000 euro come... Tu mi hai detto 600 euro. Siamo sui 600, partiamo dai 660, venduta in kit da assemblare, quindi... Ma voi le producete queste stampanti? Noi le produciamo, sì, perché in realtà sono dei dispositivi anche relativamente semplici, quindi abbiamo la possibilità di realizzarle e le vendiamo. Quello che vorremmo riuscire a fare, speriamo, abbiamo queste, di riuscire a distribuirle in maniera abbastanza capillare. Il prezzo basso è anche per questo, per renderle accessibili popolari. ad una fetta più ampia. Ma chi è che deve comprare? Chi è che ha bisogno di una stampante? Adesso io non so, ci sto pensando tra ieri e oggi. Guarda, dall'esperienza che abbiamo avuto allo SMAU abbiamo confermato un po' quello che vediamo tutti i giorni da chi ci cerca. Ci cercano sia dei professionisti che pensano di farci dei prototipi, quindi un primo pezzo prima di andare poi in produzione con una lunga serie di grossa serie di pezzi. Gli hobbisti, che come dicevo prima possono avere delle richieste estremamente specifiche, quindi vogliono realizzare da sé un determinato oggetto. E poi, sorprendentemente, ci contattano anche persone che non sanno cosa farci, ma ne riescono ad afferrare le potenzialità dello strumento e quindi dicono: io intanto me la tengo in casa, quando scoprirò cosa ci posso fare, allora l'avrò già pronta e... Sì. Senti, ci fai degli esempi di cose che si possono produrre? Dunque, pensando che il grande vantaggio è quello di realizzare anche il pezzo singolo, si può andare verso la personalizzazione di un oggetto. Quindi, esempio, potremmo anche realizzare il frame di un paio di occhiali, la montatura di un paio di occhiali, che è qualcosa di estremamente personale, nel quale si riflette il gusto della persona che l'ha realizzata. Però posso fare anche un bicchiere? Si può anche realizzare un bicchiere, si può anche realizzare un cucchiaio, ma magari quelli sono altri tipi di oggetti. Per carità, si può realizzare quello che si vuole. Io ho fatto sempre esempio del cucchiaio, ma non gli è piaciuto molto, Davide. Emil, vuoi aggiungere? A questo proposito, una curiosità è: ma la stampante tridimensionale, o che stampa, può stampare se stessa, una copia di se stessa? Questa è una delle caratteristiche di questi oggetti, cioè le stampanti tridimensionali sono in grado di realizzare i pezzi che le costituiscono, quindi di fatto sono autoreplicanti, no? Quindi sembra quasi la storia di Terminator con le macchine che si replicano, in realtà sono del tutto innocue, ma sì, abbiamo... La possibilità di replicare una macchina. Adesso voglio fare un passo più in avanti, poi se qualche ascoltatore vuole qualche dettaglio in più su come queste macchine riescono a produrre eccetera, però vorrei fare un passaggio più avanti, perché allora noi stiamo assistendo all'inizio di una evoluzione, di un trend che alcuni definiscono la terza rivoluzione industriale, perché in questo modo, quando le macchine di questo genere saranno più evolute, costeranno meno, saranno distribuite un po' in tutti i paesi, possiamo pensare che invece che la produzione avvenga in un unico punto, magari in Cina o comunque lontano da casa nostra, in un unico punto viene fatto il progetto e ognuno a casa si scarica il progetto e si produce il pezzo. Adesso poi bisognerà vedere che tipo di evoluzione, perché oggi si possono fare delle cose molto semplici, non è che si può costruire uno smartphone, però in prospettiva chi lo sa. Ecco, raccontaci un po' come la vedete voi questa rivoluzione e questa evoluzione. Dunque sì, è uno scenario che ci sprona tanto ed è un po' il motivo per cui vogliamo riuscire a distribuirle un po' a tutti i livelli, per far passare l'idea che non per forza ti devi andare a comprare qualcosa, ma te la puoi realizzare in casa. Questo prevederebbe la possibilità di distribuire la produzione sul territorio in piccoli centri produttivi, che quindi avranno una produzione più... dei lotti più piccoli, dei magazzini più piccoli, no, anche nel trasporto delle merci si riduce, trasferire byte è estremamente rapido ed economico, trasferire atomi o comunque materiale è tutto molto più complicato. Senti, voi usate la plastica, che altri materiali si usano? Perché ci sono altre tecnologie rispetto, oltre alla vostra. La stampa 3D in generale prevede tanti tipi di tecnologie che permettono di stampare anche metalli o altri tipi di materiali. Noi utilizziamo sostanzialmente due tipi di plastiche. L'ABS, che ce lo ritroviamo poi in realtà molto spesso in casa, e il PLA, che è un altro tipo di materiale bio. Come funzionano le stampanti che invece utilizzano materiali metallici? Quelle sono un'altra famiglia, stanno su altre... ragionano in altra maniera. Quelle hanno un laser che colpisce una polvere metallica e in quel punto lo fonde e solidifica, quindi sì, sempre con il principio della crescita dal basso, strato dopo strato, ma in questo caso è il metallo che viene fuso di, sì, fatto. Stiamo parlando in questo caso di macchine molto più costose, macchine industriali che stanno proprio... Però proprio a tal proposito vorrei farti dire, visto che voi conoscete molto bene questo trend, una cosa importante che vale anche per le aziende, cioè ad esempio la prototipazione, sì, sì, si sta, diventa sempre più popolare, diciamo così. Certo. Moltissimi progettisti ci hanno contattato in questi giorni allo SMAU, proprio perché anziché rivolgersi all'esterno per farsi realizzare i primi prototipi, quindi vedere fisicamente come risulterà l'oggetto che stanno progettando, avere all'interno una macchina del genere gli permette di abbassare i costi e di avere immediatamente un riscontro fisico in merito all'evoluzione del progetto e quindi di accelerare il time to market, diversi sì, vantaggi. Senti, un'altra evoluzione riguarda il mestiere dei designer. Tu, sì, tu fai il designer, sì, cioè quindi tu sei un progettista, sì, giusto? Sì. Come può cambiare il tuo mestiere? Dunque, uno dei problemi con i quali si deve confrontare il designer è il fatto di trovare qualcuno disposto ad abbracciare la sua idea, il suo progetto e a produrglielo, no? E a metterlo sul mercato, eccetera. E in questa maniera, se pensiamo alla diffusione di queste stampanti, alla possibilità di realizzare in casa l'oggetto che si desidera, io designer posso semplicemente mettere online il mio progetto e quindi venderlo online. Lo venderei ad un prezzo estremamente più basso, ne venderei probabilmente molte più copie e non avrei quel, diciamo, non dovrei passare attraverso il gusto di qualcun altro che decide se mettermi in commercio o meno il progetto. Allora, riprenderemo tra poco questa puntata e poi vi faremo ascoltare anche la voce di altre startup che in ambiti diversi hanno presentato le loro idee all'interno dei percorsi dell'innovazione di SMAU. Numbers 2024. Abbiamo parlato dei percorsi dell'innovazione, di queste imprese innovative che sono state presentate durante SMAU. Allora, quante sono quelle che hanno partecipato e hanno incontrato le persone durante i giorni di SMAU? 100, 112 o 203? Emilio Abirashid sa naturalmente la risposta, ma invece la domanda la facciamo a voi, perché chi risponde esattamente può vincere una confezione di Dragon Naturally Speaking, che è un software di riconoscimento vocale di Nuance. Oggi abbiamo una versione per Mac. Allora, vince il primo che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente. Numbers 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, in questa puntata stiamo parlando di startup e di una startup, è con noi Davide Montenegro di Ken Strapper. Voi, Davide, che premio avete vinto durante SMAU? Noi abbiamo vinto il premio Lamarck come startup innovativa. Punto. Esatto, quel premio. Esatto. Senti, fatturate già? Sì, sì, sì. Anche punto. In questo caso sì. Senti, un ascoltatore, così torniamo anche ai prodotti che si possono fare con queste stampanti 3D, ci dice: ma un modellista ferroviario, sì, ad esempio, può costruire le casette delle stazioni, eccetera eccetera, non so, anche i treni, boh? Il modellista in genere è proprio uno dei nostri target maggiori, nel senso delle persone che ci vengono a cercare maggiormente, perché spesso hanno delle esigenze specifiche o il desiderio di realizzare qualcosa di unico che possono soddisfare o rivolgendosi ad un service esterno, quindi mandando fuori il proprio disegno, o realizzandoselo in casa, abbassando i costi. Una cosa che io immagino è che magari fra qualche anno ci possa essere in ogni paese un negozio, che ne so, la tabaccheria, che si prende la stampante 3D. Uno, quando ha bisogno di qualche cosa, dice: vado in tabaccheria e mi faccio stampare sta cosa. Vado, sì, là con la chiavetta, sì, e il progetto è... Più o meno come andarsi a fare una fotocopia, in un certo senso. Cioè avere, esatto, una, sì, forma digitale di quel documento, e di cui l'output, cioè il risultato finale è Senti, fisico. Quanto precise sono queste stampanti? Riusciamo ad essere anche abbastanza precisi. Tipo? Si riesce ad arrivare anche ad un centesimo di millimetro. come spessore di ogni layer, di ogni fetta di ananas, diciamo. Ok, perché ad esempio un ascoltatore dice è possibile replicare il modello di un'impronta dentale, che questo è un settore interessante. È possibile anche replicare il modello di un'impronta dentale, non le protesi stesse, perché hanno altri materiali, altri requisiti e tutta una serie di restrizioni. Senti, a questo punto uno potrebbe pensare, ma visto che con l'arrivo delle tecnologie digitali, se pensiamo alla musica, si è creato un mercato della pirateria incredibile, se io ho una stampante 3D e trovo online il file di un prodotto che magari è brevettato, io me lo posso riprodurre. Adesso magari non oggi, perché la precisione, queste stampanti non riescono a riprodurre pezzi troppo complessi, però dipende dalla natura di questo oggetto. Però esiste un dibattito, cioè, ma al di là di è un, tra le altre cose, è un argomento anche abbastanza controverso e caldo. È uscito diversi articoli in questi mesi in merito ai DRM, cioè un limite sul file che non permette la replicabilità, la stampa, se non hai quel particolare requisito. Comunque questo sarà un problema. Sarà un bel problema, già se ne sta discutendo, ma in realtà probabilmente si esaurirà tutto in una grande bolla, perché viene utilizzato più per... Giustamente, Paolo Corleone mi dice, ma le monete, adesso voi usate la plastica, ma visto che ci sono stampanti 3D che stampano anche il metallo, ma si possono riprodurre anche le monete? Noi questo non lo facciamo perché stampiamo plastica, quindi però non ti so dire, non sono abbastanza addentro al mondo delle stampanti industriali per stampanti per metallo, rispondere per monete. Credo comunque che sia veramente un'impresa. Emil, ti piace questa rivoluzione? Cioè, cosa pensi? Perché c'è chi dice che questa sarà la terza rivoluzione industriale, che le macchine saranno così a basso costo e così evolute da produrre cose, come diceva prima David, distribuite in tutto il mondo. Quindi io mi scarico il progetto dello smartphone e mi faccio lo smartphone. Per arrivare a quel punto forse bisogna attendere ancora un po', perché la sofisticatezza di queste stampanti non è arrivata ancora a quel livello. Però certo che la strada è tracciata. Io come prime conseguenze vedo per esempio l'eliminazione di un sacco di oggetti che tutti noi abbiamo in casa e che stanno lì solo a prendere polvere, cioè roba che magari usiamo una volta all'anno e che occupa spazio, sta lì a prendere polvere. Con la stampante 3D ti scarichi il file, stampi l'oggetto quando ti serve, quando hai finito di usarlo, quel materiale lo puoi eventualmente riciclare per stampare un altro oggetto. Questo potrebbe essere una prima conseguenza. Sì. A proposito di esempi, tu prima durante la pubblicità mi dicevi, c'è un tizio americano che ha fatto soldi costruendo un componente per gli omini della famosa casa produttrice di mattoncini. Lego si chiama. Dicevo, la Lego produce le armi da l'arma bianca, insomma, però non produce le armi da fuoco per i suoi omini, per ragioni sue, eccetera, insomma, anche comprensibili. E questo signore americano con una stampante 3D si è messo a produrre armi da fuoco per gli omini e ne ha venduti un sacco, perché poi alla fine i bambinetti giocano. Sì, c'è anche chi dice, David, che questa tecnologia potrà permettere a un numero maggiore di persone, ad esempio, di produrre delle armi in casa. Incredibile questa cosa. Sì, beh, un'arma non è proprio una cosa... Il delle stampanti. Non si realizza con così semplicemente, quindi però penso che ce ne voglia. Questo è un tema di dibattito. Allora, a proposito di altre startup che abbiamo incontrato durante SMAO, ve ne presentiamo una che è divertente, anche perché prende spunto, ma lo dirà poi nell'intervista tra poco il nostro interlocutore, prende spunto da un trend sociale molto interessante. Allora, Graziano Romanelli è uno dei fondatori di New Gusto. New Gusto è un social network per mangiare a casa le persone iscritte, cioè se una persona vuol mettere su un piccolo ristorante domestico può mettere sulla piattaforma un menu, stabilirne il prezzo, poi saranno le persone iscritte a scegliere il cuoco, il menù che preferisce e andare a mangiare, prenotarsi e andare a mangiare a casa di queste persone. Di conseguenza il cuoco può stabilire se farsi pagare in anticipo, quindi viene pagato durante la prenotazione, oppure a casa direttamente durante l'evento, oppure semplicemente lo fa gratuitamente per conoscere nuove persone, per condividere la tavola magari con persone, con amici della propria cerchia. Ma voi pensate che ci siano così tante persone da creare un business di questo genere? Tante persone interessate a far questo. Certo, noi ci ispiriamo al couchsurfing, che è praticamente la filosofia di condividere un divano con, diciamo, tra virgolette, degli sconosciuti. Questa community ha 4 milioni di iscritti, quindi traslato al food potrebbe anche funzionare, anche perché siamo online da gennaio, abbiamo iscritti in circa 60 stati, abbiamo circa 600 cuochi sparsi per il mondo, di cui 6.000 sono gli iscritti, gli ospiti che vanno disponibili a mangiare, quindi tenendo conto che finora non abbiamo avuto tanta visibilità, solamente col passaparola siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi. Senti, fammi un esempio di un vostro utente che viaggiando, o forse anche senza viaggiare, magari rimanendo nella città dove risiede, usa e come usa New Gusto? Beh, semplicemente uno magari organizza un viaggio per andare a Parigi, vuol mangiare un piatto tipico, invece di andare al ristorante e mangiare il menù turistico, può andare semplicemente a prenotarsi su New Gusto, trovare il piatto tipico, lo assaporare, assaggiare direttamente a casa del cuoco, del posto, dell'abitante. Così può conoscere nuove persone, condividere la cultura, conoscere la cultura del posto, e in questo modo può trovare anche un referente per magari avere, se ha bisogno di aiuto o qualcos'altro. Sì, molto divertente. Emil, noto che molte startup stanno tentando di creare dei social network alternativi. Questo di fatto è un social network, giusto? È vero? Sono la maggior parte, mi sembra. Beh, no? La maggior parte non direi, sono molte, ma non la maggior parte. Poi il concetto di social network può essere declinato in tantissime maniere, volendo anche la community startup business a suo modo un social network. L'esempio in Augusto è un esempio interessante, molto divertente, però la cosa importante è che l'approccio che hanno e il modello di business che hanno queste startup ha un effetto diretto su business di altri. I menu turistici dei ristoranti di Parigi, se questa cosa prende piede, probabilmente entrano in crisi, e questo è un cambiamento di paradigma. Prima poi che una cosa interessante è, mi ha stupito, ma come dire, tutte le volte, non è la prima volta che sento dire una cosa del genere, che lui abbia detto: non abbiamo fatto pubblicità, ma abbiamo già, adesso non ricordo il numero, ma un numero piuttosto interessante di persone, che è una delle caratteristiche di internet, e questo un po' mi stupisce. Detto questo, correggimi se sbaglio, comunque sia, molte startup, gran parte dei soldi che chiedono ai venture capital li chiedono per promozione, giusto? Anche qui dipende da che tipo di startup è, da quanto capitale ha bisogno per crescere. La promozione è una voce molto importante per le startup, diciamo web-based o digitali, però non solo, perché magari poi hai bisogno anche di trovare degli sviluppatori più bravi o da affiancare a quelli che hai già, quindi hai bisogno anche di assumere delle risorse. Sì. Dunque, sentiamo Carlo che ci chiama da Bergamo. Carlo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, stavo ascoltando con molto interesse questo discorso qui nella mia aziendina dove sto producendo delle materie plastiche, e ovviamente non essendo un addetto ai lavori la mia domanda potrebbe sembrare banale, però vorrei chiedere, in un futuro non so quanto lontano, è ipotizzabile anche la creazione con ovviamente altri materiali di oggetti di uso comune, quali non so, borsette, portafogli e quant'altro? Interessante questa domanda. Carlo, grazie per aver chiamato, buon ascolto. Grazie. Allora, a voi. Facciamo rispondere a David. Dunque, il campo dei materiali è sicuramente uno dei campi in cui si tenderà ad evolversi maggiormente, proprio per offrire un maggior ventaglio di soluzioni alla fine. In questo momento si stanno sviluppando alcune soluzioni per quanto riguarda i tessuti. Nel campo della moda stanno ragionando in questi termini per la produzione di tessuti stampati in 3D. Si riescono anche a realizzare dei fogli, con altre tecniche in legno, ad esempio, riuscendo a modellarlo, a renderlo molto più flessibile, ma quello è una questione di progetto del materiale stesso. Ed è una notizia della settimana scorsa, la produzione di un materiale realizzato proprio per le nostre macchine, quindi in filamento da 3 mm, di legno. Cioè le nostre macchine riusciranno a brevissimo a stampare in legno, che sembra una cosa assurda, ma è così. Materiali come pasta di legno che viene iniettata. C'è una specie di pasta di legno, più o meno come l'MDF, una pasta sì, che può essere sciolta in qualche modo e dato dei diversi toni di bruno. Senti, giustamente, anche se nessun ascoltatore ha notato questo, non ha fatto questa domanda, ma la faccio io, ma il materiale che viene iniettato per stampare, mm-hmm, quindi per produrre il bicchiere, il cucchiaio, qualsiasi altra cosa, sì, quanto costa? Perché la stampante costa non tantissimo, ma nemmeno pochissimo, però bisogna anche capire anche i materiali sono assolutamente accessibili dal punto di vista del prezzo, tipo? Perché altrimenti non avrebbe senso. Ah, certo. In questo momento noi forniamo, rivendiamo anche materiale, ad esempio in questo momento sta a 45 euro al chilo, e con un chilo ci riesce a stampare veramente tante cose. Sì, perché i prodotti poi sono vuoti. I prototipi puoi anche, sì, spesso sono vuoti, dargli una struttura che gli permette di alleggerirli. 2024. Mancano pochi minuti al termine di questa puntata, che vi ricordo sarà disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24, quindi vi invito ad abbonarvi gratuitamente al podcast di 2024. Io sono Enrico Paglierini, potete raggiungermi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, quindi durante la settimana, per le vostre domande, considerazioni, proposte, anche delle idee per le prossime puntate. Allora, questa settimana siamo stati a Smau, come sempre molto interessante. Diamo però una tirata d'orecchie a Fiera Milano, perché quando sono arrivato durante il primo giorno c'erano delle lunghe file, e questo, vabbè, può essere accettabile perché se tutti arrivano allo stesso momento, ma pensate, poi ognuno fa le proprie valutazioni, che io sono arrivato, mi ero accreditato in modo elettronico dal sito internet e c'era scritto vai alla reception con questa email, e la signora che controllava se il mio nome era inserito, a parte che non l'ha trovato, questo è già un problema, lo stava cercando su un foglio di carta stampato. Allora, naturalmente la tecnologia, ad una fiera della tecnologia come Smau, suggerirebbe che ad uno sullo smartphone arriva il QR code ed entra automaticamente. Adesso non voglio arrivare all'NFC, cosa che potremmo forse vedere quest'altr'anno, ma visto che Milano dovrebbe essere una delle capitali e si prepara all'Expo, speriamo che Fiera Milano diventi tecnologicamente un po' più evoluta. Chiusa questa tirata d'orecchie, volevo farvi sentire altre due startup che sono state presentate durante Smau. Allora, la prima è di un simpatico signore, Giuseppe Gargiulo, che è fondatore di Earmatic, che ha realizzato una piattaforma per cercare distributori automatici e sapere quali prodotti ci sono all'interno. Per noi in effetti abbiamo realizzato un sistema che praticamente attraverso un'app riesce praticamente a dare la localizzazione dei prodotti che si interessano negli distributori automatici presenti in città. E le informazioni chi ve le dà? Ce li danno praticamente direttamente i gestori, che con noi hanno un rapporto diretto in esclusiva e ci danno praticamente queste informazioni. Quindi se io voglio trovare una bibita e sono per strada, con questa applicazione la riesco a trovare? Facciamo un esempio ancora più chiaro. Sono le 2 di notte, sono con amici, ho bisogno praticamente di bermi una birra. Allora, a un certo punto, attraverso la nostra app posso praticamente trovare la birra, non solo sapere il prezzo e quante birre ci sono in quel distributore, in modo che se siamo 10 non c'è nessuno che rimane senza. Come fate i soldi? Li facciamo attraverso un fee che i distributori ci danno per mettere la macchina nel sistema e quindi sfruttare le potenzialità offerte dal sistema per fare incentivazione alle vendite. Esiste già questo, cioè lo possiamo già scaricare l'app? Adesso è in beta privata, stiamo caricando i primi distributori, ne caricheremo 10.000 e entro fine novembre sarà in beta pubblica e quindi chiaramente inizierà a essere distribuita l'applicazione. E questa è Earmatic. Saluto Ciro che ci chiama da Napoli. Ciro, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Allora Ciro, hai risposto esattamente, allora dici quanti erano queste start-up che sono state presentate a SMAU. Sì, sono 100. Molto bene. Riceverai a casa Dragon Naturally Speaking, il software di riconoscimento vocale di Nuance in versione Mac. Adesso noi proseguiamo questo percorso e Marco Menichelli, che assieme a Massimo Nunziato ha fondato Mente in Movimento, ci ha presentato una cosa molto interessante, un linguaggio di programmazione che si chiama Leonardo e che permette di scrivere software, quindi realizzare un programma attraverso il linguaggio naturale. Noi abbiamo creato Leonardo Human Language Code, che è il primo nato proprio della categoria Human Language Code, che è una nuova categoria di linguaggio di programmazione, cioè il linguaggio di programmazione più alto livello mai inventato. Leonardo prende in input il linguaggio naturale e lo trasforma in un software, quindi sintetizza il processo cognitivo di un programmatore esperto e esegue esattamente quello che gli viene detto. Mettiamo che io dico a Leonardo che ho bisogno di un'applicazione che mi invii sms multipli a più numeri, ho la possibilità di dire: creami dei campi di testo, inserisci nome e cognome, il numero in un campo di testo X, il tasto invia l'SMS ai numeri selezionati. Questo è il codice di Leonardo. Bene, abbiamo concluso, ma come dicevamo poco fa, ce ne sono state 100 presentate all'interno dei percorsi dell'innovazione. Emil, dove se uno è curioso, anche per lavoro, perché secondo me una persona che fa business dovrebbe incontrare le startup perché da lì nascono le idee, dove vede tutta la lista, anche il dettaglio? Tutti i dettagli, le informazioni e i contatti delle startup sono all'interno della community di Startup Business, dove oltre alle 100 che ce n'erano a SMAU ce ne sono 300 in vetrina e 1600 iscritti come startup. Startupbusiness.it. Grazie ad Emil Abirashid per essere stato con noi, anche per il lavoro che fai, perché io lo ricordo bene, tu da quanti anni ti occupi di startup? Se la prima edizione di percorsi era il 2004, metti un anno prima. Insomma, esatto. Ben prima che scoppiasse questa, sì. Che alcuni potrebbero andavo anche in giro a parlare di queste cose, mi guardavano come se arrivassi da un altro pianeta. Oggi invece. Bene, grazie anche a Davide Montenegro per essere stato con noi, con i ragazzi di Ken Strapper. Tra l'altro c'è una manifestazione oggi in via Forcella, zona Tortona, a Milano, proprio sulle stampanti 3D, quindi se siete curiosi. Davide, in bocca al lupo, a presto. Grazie, crepi il lupo. E noi concludiamo questa puntata di 2024, grazie a Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica, Nadia Zammitti e Danita Panizza. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana, ci occuperemo non solo ma ampiamente di Windows 8. Appuntamento a sabato prossimo e buon ascolto con i nostri programmi. 2024.